bale nala Juruganye baba ima juru ni inga mewa Turungaye ae Mangaye bale nala ya Turungaye baba ima juru ni inga me Me dante niala, ma juru ninga mewa. Tosa te moto la ki kadunia ye. Tumani ni zokto duma farani mama. Tumani donso warali kiamo. Sogalu borika me jiki, sogalu borika me tana jiki. Jiki ni donso duma farani mama. Ihe, manganye balin lala. Rukanye baba ima juru ni inga mewa Ima solu warika me mamadu Mamadu ni donso luma farati mama Iye manganye bali nala ya Iye baba ima juru ni inga mewa Madungaya manganye bali nala Jurukanye baba ima juru ni inga mewa Jurosiki donso luwale mi Kena karaba don so duale mi Jani gache doko non so itako na ula fantani ula bandono Na miso sana mbadi so bie kenela Mangaye bali nlala Juru ganye baba ima juru ni inga me Juru ganye ya Mangaye bali nlala Juru ganye baba ima juru ni inga me Anganani barobedena, anganani barotekiama, sula bulon fara, nyana malabulon langulara. Adiara mami alakani, amadia mami alakani, bana masa, ani duda masa, kiri jalali warikira. Bai kulonge to uchela Ye dunya la mini juru kanye balena la Aha aha iwa juru ni ngame Wajani kadi nyame Ako kuru bagoya Sundori kawili kadi bamae Aku yang bae kutue Kobe mala Kobe mala Nela juru fo Aku ma juru kame dante di ala Amazon juru ni inte fola jito e Yala beme sola Imo mangame wa Koya suli jalali wali kirami Jikono jagabiyala Akwaya sujalali Muswaya efembae Muswadebi banabange Muswadebi alimubange Muswadebi walijubange Muswadebi famabange Muswadebi fandambange Iye muswa Nekulala musula Farafina musula Nekulala musula Farajala musula Ima sogolu gorika mejiki Sogolu gorika mebana jigi Sogolu gorika memamadu Sogolu gorika mebaidija Ako ala alikuwa nekete Bilai alinakerate Ate monebo Kwa mbara donso imbara boke nyonyi Mbara donso imbara mtirie He he ne mbara donso imbara mflanye Ananani barobediena Ananani barotekiana Nala juni nyo fukwariye Najuruni ndepo dangadenye Najuruni ndepo ila ila mkoye Iye Manganye bali nala Juruganye baba ima juruni ngame Tra l'altro vale sottolineare che una parte degli introiti di questo disco, dei pezzi di questo disco, vanno a questa associazione congolese che recupera sia da un punto di vista psicologico ma anche da un punto di vista medico le donne che hanno subito gli stupri in quella zona del Congo, in cui vicino dei grandi laghi, in cui specialmente negli ultimi tempi sono state troppo spesso problemi di questo genere. E tra l'altro questa associazione il leader, il medico che ha fondato questa associazione, che la sta tuttora portando avanti, è stato insignito del premio Nobel per la pace insieme a una donna yazida, proprio per questa opera di sostegno alle donne. Non è che a noi ci interessi particolarmente parlare dei premi Nobel, ma va considerato che questa volta è stato dato a una persona e conseguentemente a un'associazione costruita dal basso e senza la sponsorizzazione, l'apporto politico dei grandi, dei governi. Una delle due voci del pezzo precedente era quella di Candia Kouyaté, adesso invece nel prossimo la ascoltiamo in un pezzo tutto suo. Candia cresce nella cultura mandinga di origine, suo padre è un suonatore di balafon e lei studia finché con la morte del padre comincia a cantare in modo professionale per sopperire ai bisogni della famiglia. Si trasferisce quindi a Bamako e comincia a lavorare soprattutto nei matrimoni, insomma nelle feste, interpretando un repertorio sia tradizionale che moderno, e comincia anche a dedicarsi allo studio sia della tecnica vocale che del patrimonio di testi e musiche di cui Griot, che faceva parte della sua famiglia, sono depositari. La pubblicazione di due cassette di suoi concerti dal vivo la fanno conoscere e si crea intorno a Candia Kouyaté un seguito per il suo canto potente, dal ritmo piuttosto grave. Addirittura viene soprannominata la Dangereuse, la pericolosa, perché tra chi assiste alle sue esibizioni sono frequenti vertigini e svenimenti. Proprio per il suo successo e per la dimensione, per certi versi ancora tradizionale e comunitaria, della sua arte e della sua attività, legate alla relazione diretta con il pubblico, per diverso tempo Candia Kouyaté non sente bisogno di incidere dischi e declina molte offerte di contratti discografici. Le è più che sufficiente che le sue cassette siano rinomate nelle aree di cultura mandinga e che vadano più lontano solo con i canali dell'immigrazione in Francia. Al culmine della sua consacrazione, nel 2004 si sente male e ha dimenticato tutto il suo repertorio, ma un po' alla volta si recupera la salute e la memoria e Ibrahima Sillà nel 2011 insiste per riportarla in uno studio di registrazione, perché lei si sforzi di richiamare alla mente quel bagaglio di canti che considera perduto. Il risultato è un album, Renaissance, Rinascita, da cui ci ascoltiamo Sambayaya. samba ya ya marita la samba etinya kanya sigite etinya samba etinya la samba ya ya ndalimasa samba etinya kanya sigite etinya Jonga baga jomma jombeni daga jomma jigi jonna jombeni nyasigi jaga majaka kungolo masebe kakoro mori sebe nye Seba yo ala kile mama dukele Koro kode nuna nanga madu ajabi Aluta woyo de jazike la soli mumuchewa Samba sike samba ya ya iyo Samba sike samba ya ya sike Makumali jugula lufaida tuluna E prossimamente esce anche in Italia Alienation and Freedom, che è una nuova collezione di scritti di Frantz Fanon, curata in questa data da Jean Calfà e Robert Young, e tradotta da Stephen Corcoran. Frantz Fanon era nato nel 25 nell'isola Caraibi e morì a soli 36 anni di cancro, ma nella sua breve vita è stato in diverse parti del mondo, oltre ad aver conseguito la laurea in medicina presso l'Università di Lione. Poi successivamente si è trasferito in Algeria, dove ha contribuito, è stato parte, ha scritto per il Fronte di Liberazione Nazionale anticoloniale algerino, una causa a cui tra l'altro si è unito successivamente, quando lui era appunto in Algeria per proseguire le sue ricerche cliniche, e poi successivamente un po' girato tutta l'Africa, Accra, Bamako, Conakry e poi Mosca, Parigi e Roma. E questo appunto è l'importanza di questa collezione di scritti, questa Alienation and Freedom, perché è un tentativo andato a buon fine di raccogliere tutta la documentazione per creare un archivio postumo del suo lavoro, che appunto finora era stato sparso per tutti i luoghi di lavoro che abbiamo pensionato precedentemente: archivi statali, biblioteche medie, collezioni universitarie e perfino fondi privati. Questo libro è quindi un dono, un motivo di celebrazione. È stato pubblicato per ora soltanto in francese dalla Découverte, la casa editrice Découverte, 3 anni fa. Ed è quindi la prima grande raccolta di Fanon, che prossimamente sarà pubblicata ed è da oltre 50 anni che appunto non c'è una raccolta così onnicomprensiva, e che questa volta appunto mette insieme tutti gli scritti di Fanon. Quella precedente era pur la rivoluzione africana, verso la rivoluzione africana, ma appunto mancava degli ultimi scritti, delle ultime opere dello scrittore e rivoluzionario martinicano. E quindi questo volume sfiera una ricchezza di dettagli e narra, ci dà le sfaccettature del pensiero di Fanon, e quindi tutte le sue opinioni anche nei campi della psichiatria, della filosofia e della politica. È quindi un materiale un po' diseguale, perché è stato scritto in diverse parti del globo, in diversi anni e su diverse discipline, e quindi riflette un po' le peregrinazioni di un uomo irrequieto, la cui esperienza di razzismo ha portato all'autodeterminazione personale e che ha preferito l'impegno intellettuale allo status sociale, e che ha accettato appunto i rischi del coinvolgimento politico piuttosto di accettare un mezzo di sussistenza da borghese sicuro. L'altra cantante del primo pezzo che abbiamo ascoltato era Rohia Kone, e anche di lei adesso ci sentiamo un pezzo tutto suo, scritto da lei. Lei è nata a Diorro, un centinaio di chilometri a nord di Ségou. Ségou era la culla dell'antico regno dei Mamaman. Adesso è più facile sentirla, questo nome invece è stato praticamente soppiantato da Bambara, però in origine era Bamaman. Bamaman sono un gruppo etnico che abita principalmente la regione di Ségou e Kolikoro. Sono tributari di una cultura ancestrale in cui la musica occupa uno dei posti più importanti. E infatti, in seguito a questo, la musica di Mama Manna Bambara costituisce una delle parti essenziali della musica di tutto il Mali. La musica di Roca Konè è un insieme di ritmi tradizionali, appunto rifacenti all'eredità bambara e sonorità moderne. La sua lingua canta principalmente nella sua lingua, cioè i bambara, e nei suoi testi spesso sono pieni di messaggi sociali, non solo riguardanti il discorso che abbiamo fatto all'inizio, i diritti delle donne, eccetera, ma più in generale riguardanti tutto il Mali e l'Africa in generale. Di lei ci ascoltiamo Falà. RHHM numero 1 du Rap Malien. Fala Lucas e Can. Agudo no Yama Caribe Nela. Luca Production présente. Ni bila la palara, ala bila. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Wombat su wombat.noblogs.org, oppure ci state ascoltando in AM al 1359, oltre che ascoltarci in streaming su wombat.noblogs.org potete scaricare dal menu podcast tutti i podcast delle puntate precedenti di Uro o di qualsiasi altra trasmissione. Seguiteci anche su Twitter a twitter.com/radiowombatfi. Uru, lo sapete, lo abbiamo già detto tante volte, ha un proprio profilo Twitter che è uru-rw. La replica della trasmissione di Uru è la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30. È sempre raro vedere passare sugli schermi film africani, ma le occasioni di festival e rassegne si stanno un po' moltiplicando e anche gli stessi film sono un po' più fruibili grazie alla rete. E quindi vi facciamo, diciamo, una carrellata di occasioni dall'Africa all'Europa, Italia compresa, in cui appunto ci sono proiezioni di film africani. Chiaramente parliamo un po' di tutta l'Europa e quindi non pensiamo che ci sia la possibilità di andare direttamente a vederli, però magari cercando sui siti che li propongono, sui siti ufficiali di questi festival, è possibile farsi un'idea degli ultimi film usciti o comunque dei registi africani, magari guardando le rassegne che vengono proposte, e poi ricercarli. Quindi sguardi rivolti in Burkina Faso, per esempio, dove il prossimo anno si celebrerà dal 23 febbraio al 2 marzo il 50° anniversario della creazione del FESPACO, che è tra l'altro il festival africano più importante. FESPACO sta per Festival Panafricano del Cinema e della Televisione, e si svolge a Ouagadougou, appunto la capitale del Burkina Faso, e ancora oggi dal 1969 rimane appunto la principale vetrina mondiale del cinema e dell'audiovisivo africano e il principale appuntamento chiaramente per i registi, per gli amatori, i giovani talenti della pellicola e ultimamente chiaramente anche del digitale. A Londra invece dal 2 all'11 novembre la Royal Society Africa propone Film Africa, proiezione, eventi, debatti, workshop che hanno un fitto programma sia appunto dal punto di vista dei laboratori sia per la qualità della programmazione, e che prevede tra l'altro quest'anno il Baobab Award per il miglior cortometraggio. I registi e quindi i film provengono quest'anno oltre dalla Giamaica, dal Ghana, dall'Uganda, dalla Ruanda, Nigeria e dall'Egitto. In Italia invece c'è l'evento storico, tra virgolette, giunto appunto alla sua 38esima edizione, che è il Festival Cinema Africano, e si tiene ogni anno a Verona, quest'anno dal 9 al 18 novembre, quindi prossimamente. Uno degli omaggi, una sorta di pre-festival, è dedicato a due dei più importanti esponenti del cinema africano, il burkinabè Idrissa Ouedraogo, scomparso quest'anno a febbraio, e il senegalese Djibril Diop Mbeki, morto 10 anni fa, un cineasta autodidatto, insediato fra i più originali, visionario e sperimentale registi africano. Tra l'altro nella trasmissione dedicata alle colonne sonore cinematografiche abbiamo dato due pezzi musicali appunto tratti da due film di questi due registi. E sempre in Italia non mancano altre manifestazioni, tra cui a Milano il Festival del Cinema Africano dell'Asia e dell'America Latina, quest'anno dal 23 al 31 marzo, che appunto a film vengono proiettati film dell'Asia e dell'America Latina, ma anche del cinema africano. A livello europeo invece c'è un festival del cinema africano in Spagna, in questo caso dal 26 aprile al 4 maggio, si svolge tra Tarifa e Tangeri, e in Germania invece vanno segnalati l'Africa Festival Würzburg, in Baviera l'edizione 2019 dal 30 maggio al 2 giugno e l'Africa Film Festival di Köln, la cui ultima edizione si è tenuta lo scorso settembre e altri 10 giorni sono già in calendario appunto per settembre prossimo nel 2019. In Svizzera Winterthur da circa 25 anni si tiene l'Afro Fingerstein, dove il cinema ha il suo spazio in un contesto più ampio che prevede anche particolare musica ma anche filosofia e più in generale le arti espressive. La prossima edizione dal 4 al 10 giugno 2019. Proiezioni e festival anche in Inghilterra e in Irlanda. L'Africa in Motion in Scozia, la cui edizione 2018 è proprio in questo periodo, alla fine di ottobre, e che è a luogo a Edimburgo e Glasgow e che dura fino al 4 novembre. Proprio il 4 novembre invece Africa Air Festival a Bristol, anche in questo caso una settimana di eventi, discussioni ed esibizioni che fanno da corollario alle proiezioni. A giugno, e quindi il prossimo giugno, la prossima edizione, il Gateway African Film Festival in Irlanda, e mentre a Cambridge si conclude proprio oggi la 17ª edizione del Cambridge African Film Festival. Quindi svariati eventi, molto spesso da parte nostra, da parte di ascolto, si pensa anche impossibilità a parteciparvi, ma possibilità a ricercare in rete, in particolar modo tutte le informazioni inerenti a questi festival e conseguentemente il cinema africano. Il prossimo pezzo è di Kaira Arbi, nata e c'è stata sempre a Timbuktu, figlia di un padre Tuareg e di una madre Songhai, canta fin da piccola alle feste, sta sempre a Timbuktu, mentre la capitale Bamako diventa un mercato musicale sempre affollato, la sua posizione in un villaggio vicino a Timbuktu le ha permesso di marcare il proprio territorio. E proprio come Timbuktu è un crocevia, anche la musica di Kaira va in direzioni diverse. Vista la particolarità del fatto che è di padre Tuareg e madre Songhai, canta in arabo, in Songhai, in Tamashek, in Bambara, e quindi in tante lingue che riflettono un po' anche Timbuktu, anche sotto questo. Poi ci ascoltiamo Timbuktu Tara. Chimmy, chimmy, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Fatoumata Diawara è nota anche per aver prestato la voce a un protagonista del cartone animato di Kirikou e la strega Krabà, e anche attrice, ma soprattutto cantante. Ha cominciato a suonare la chitarra incoraggiata da una delle altre giovani, sì, cantanti maliane, Rokia Traoré, anche lei impegnata nel, oltre a cantare, nel, nel riscatto sociale, diciamo, delle donne maliane. E proprio incoraggiata l'amica Rokia Traoré, perché come come lei rompono entrambi gli schemi tradizionali che consideravano sconveniente imbracciare la chitarra per una ragazza. Quindi lei arriva con, al debutto discografico già con questa particolarità, e ridefinisce la sua una posizione della cantante maliana a metà tra la figura di cantautrice e quella di folk singer, e rivendica questo ruolo di primo piano delle donne nel contesto della musica africana. Canta in lingua Bambara e interini la canzone che andiamo ad ascoltare, si sente chiaramente l'influenza del suono vassulo accostato a strumenti etnici, a percussione, violoncello e la chitarra. Parla di una storia individuale, però nello stesso momento una storia collettiva, perché racconta attraverso il viaggio di un migrante la vicenda collettiva delle migrazioni, e quindi un migrante che si questo viaggio del migrante si intreccia con tutta un'intera e vasta comunità di esseri umani che appunto si muovono. Quindi Fatoumata Diawara, interini. Nkanu tara yorojana ale maso sima Njarabi tara yorojana ale maso sima Nderini nderini ngabedisa Njarabi mafega nyalo nyala Nderini I want to know. Jalabi wale E a Brazzaville, ricordiamo che Brazzaville è la capitale appunto del Congo Brazzaville, quello piccolo, ecco, quello accanto al Congo Kinshasa, è quello grande. E a Brazzaville ha aperto una galleria per fornire uno spazio dove tutti i pittori e artisti locali possono mostrare le proprie opere senza distinzioni. Questa è la particolarità. Si chiama Brazza Art Gallery, è situata, altra particolarità, nel cuore, nel centro della capitale, e ulteriore particolarità, non prevede restrizioni su chi ha ammesso a esporre le proprie opere. Tant'è che un pittore locale ha partecipato alla prima esposizione. C'è una grande opportunità per tutti gli artisti congolesi e da anni aspettano di avere uno spazio aperto. La galleria infatti appartiene a tutti e tutti possono venire alla galleria per presentare i loro lavori, è quindi una galleria aperta. E quindi continua questo pittore: è ora il nostro paese presti più attenzione al lavoro degli artisti locali, specialmente a tanti che fanno un ottimo lavoro ma rimangono completamente sconosciuti. Potete trovare notizie della Brazza Art Gallery sia cioè un proprio sito web e un profilo Facebook. Nel prossimo pezzo la voce è di Bako Dagnon. Nata in un piccolo villaggio vicino a Kita nella regione di Segù, impara fin da piccola a suonare lo ngoni, uno strumento a corde locale. È considerata una rappresentante della cultura mandinga popolare. Nel 1974 si unisce all'ensemble Instrumental National del Mali, che a quel tempo era la più prestigiosa ensemble musicale del paese. Con loro si esibisce un po' in tutta Europa fino alla Cina, dove canta per Mao. Dopo un grave incidente stradale lascia l'ensemble negli anni 80, a metà anni 80. Registra qualche cassetta per una casa di produzione liberiana, ma quando in Liberia comincia la guerra civile vengono perse tutte le registrazioni. Quindi in realtà il primo album suo di cui abbiamo notizie e voce vede la luce soltanto nel 2007. Quindi Bako Dagnon, di lei ci ascoltiamo Titati. Manyokura kadibe be kwanyo muso merene tiki iko kadine kwanyo dumanye kusigi kudalimba buna kukadine muso nyuma kukadine kekise kudugu jasira iko kadine kwanyo muso kukadine kukadine kukadine masheri dalima yine. Kwanyo tiyelena kwanyo muso itiyelene lewa kwanyo itiyelena kwanyo muso itiyelene lewa kwanyo tiyelena la tiyelena la tiyelena wala edari manye alu yene nina enefe mbebi yawe alu yengo sila enefe Il prossimo pezzo è di Nahawa Dumbi, anche lei è nata in un piccolo villaggio, in questo caso del Basulu, così come Fatumata di Avarà, che è una zona a sud di Bamako, e abitata appunto da questa etnia, dall'etnia Basulu. E nonostante non avesse, a differenza di molte altre cantanti maliane, da piccola un particolare interesse al canto, partecipa nel 1980 alla Biennale della Gioventù, proprio perché una iniziativa organizzata dal governo in cui partecipavano tantissimi giovani provenienti da tutto il Male. E a questa Biennale della Gioventù nel 1980 un suo pezzo viene notato e quindi diventa conosciuta in Mali e mantiene il suo fascino, una voce infantile da bambina, poi l'ascolteremo, come uno dei riferimenti vocali dell'Africa occidentale. Collabora con molti musicisti non solo africani, è sostanzialmente sfacciata, diciamo, Antecanta, perché rompe anche lei con molti tabù che accompagnano la donna, la musicista maliana, e comincia a sviluppare un'evoluzione dei balafon e dei cori proprio in una forma diversa da quella tradizionale. Parte dalla forma tradizionale, però in seguito lo sviluppa. Assume anche il ruolo di leader musicale, forma un gruppo che le consente di riassumere tutte le esperienze. Sono il Madioco, in cui lei è leader donna, e tutto il resto dei musicisti sono uomini. Ci piace ricordare anche Nama Dumbia, perché la sua partecipazione al Memorial per Thomas Sankara, avvenuto il 2 ottobre del 2016, due anni fa appunto nella capitale del Burkina Faso, e proprio perché partecipa a questo memoriale, anche perché aveva inciso precedentemente un pezzo proprio dedicato a Thomas Sankara. Oggi, stasera invece, ci ascoltiamo Sifolo, Nawama Dumbia. Sanada, e tá com a fome, o sol é imã, vem de um fogo. ma tasuma fɔ numuso la i ma fɛn jugu fɔ o tasuma tigi numulu. Sunsun ni bajɛ ma sunsun, ko sɛnɛ na sunsun bɛ dɛ, sama na sunsun bɛ dɛ, sankɛra sunsun bɛ dɛ, samadiya sunsun bɛ dɛ, le bɛ kunko taba kuma la dɔn, jɔnni kunnandi torofɛrɛ ye ba ma ca, ko jala ka bon ni jala ye, jala man kunna ni jala ye, ko jala ka ja ni jala ye, jala man kunna ni jala ye, le bɛ kun taba kuma la dɔn. Ni mbora numusola meta flala o fila sinani jadra sinani jalo ni jaite sri dengana ni sangare bari o bani mono je flalu o bani mono je flalu mau barikada o watole flalu mau barikada o brigu flalu mau barikada Aebo jokora jota ubolo fenye Aebo jokora ota ubolo fenye Fila dona ni muye leno nyepo au nyana Bisila ni jileki oni bibiriba Polibiriba bamfula oni bere dangana Ayolu ponye numuye sifora E questo era l'ultimo pezzo di questa trasmissione, vi aspettiamo per le repliche la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8.30, seguiteci su Twitter uru-rw di Radio Wombat, ciao alla prossima! Ciao ciao! Zia chabu latina, zia chabu latina, zia chabu latina, zia chabu latina, oh Ethiopia, oh Uganda, oh Kenya, oh Tanzania, oh Ghana, oh Nigeria, zia chabu latina, zia chabu latina. Zia chabu latina, zia chabu latina, helele mama, helele mama.